Mercoledì 9 novembre, allo spazio sociale 100 celle aperte, serata a sostegno della cassa di solidarietà La Lima. La cassa di solidarietà La Lima nasce per rafforzare le pratiche solidali e darci reciproco sostegno, anche economico, di fronte agli attacchi repressivi. Dalle 20, buffet vegan a sottoscrizione del progetto. A seguire, presentazione della cassa con la rete Evasioni, rete contro carcere, CIE e repressione. Mercoledì 9 novembre, presso lo spazio sociale 100 celle aperte, via delle Resede 5, tram 5 o 19 o metro C, fermata Gardena.